Mazzi del 99. Ritratto di una generazione a cavallo fra due secoli. Di Maria Piera Ceci. Li ho visti i ragazzi del 99. Andavano in prima linea cantando. Li ho visti tornare in esigua schiera. Cantavano ancora. E sentiamo se a suo modo prende la vita cantando anche il nostro ragazzo del 99 di oggi, con cui proseguiamo i nostri ritratti in questo programma di Radio 24. Le parole che avete sentito, lo sa già chi di voi ha seguito le puntate precedenti, sono del generale Diaz, che descriveva così i ragazzi del 99, quelli nati nell'ultimo spicchio dell'Ottocento, che finirono su campi di battaglia della Prima Guerra Mondiale, strappati alle famiglie, allo studio, al lavoro dei campi. Diventarono grandi combattendo in trincea, ma i nostri ragazzi del 99, per fortuna quelli nati nell'ultimo anno del Novecento, diventano grandi in un altro modo. I nostri ragazzi del 99 quest'anno compiono 18 anni, diventano grandi fra i banchi di scuola, viaggiando, facendo volontariato, facendo sport. Ma ci piace pensare che ci sia un filo che lega sempre le varie generazioni, alcuni tratti dell'età restano gli stessi di secolo in secolo. Allora è proprio questo filo che vogliamo rintracciare in queste nostre chiacchierate con cui vi stiamo tenendo compagnia quest'estate. Quali sono le loro passioni, i loro desideri, le paure di questi ragazzi? Scopriamo oggi quelle di Rodolfo Carobene, che ringraziamo per essere qui nei nostri studi, negli studi di Radio 24. Ciao Rodolfo. Ciao, grazie mille per il benvenuto. Allora, Rodolfo è milanese, frequenta il liceo classico, ha tante bellissime passioni, poi ne parleremo. Tanti capelli intrecciati nei dread e chi vuole se lo può anche andare a vedere sul sito, perché abbiamo una sua bella fotografia. Cominciamo dalla scuola, com'è andata? Benissimo, tranquillamente, sono molto bravo nelle materie scientifiche, pecco un pochino di più nell'area umanistica, ma... Che è bizzarro, perché se frequenti il liceo classico hai scelto, forse hai scoperto dopo questa tua passione? No, l'ho scoperta prima, anzi alle medie, alla terza media, quando ho dovuto scegliere la scuola è stato molto difficile perché mi interessava un po' tutto. Ho scelto il classico già pensando anche a una scelta universitaria in ambito scientifico. Quante ore studi al giorno? 3-4 ore, insomma. Abbastanza. La scuola per te è sicuramente un impegno, perché sei la media dell'8.8, insomma direi che sicuramente sei molto bravo studioso, però ti piace anche partecipare alla vita della tua scuola, perché tu sei nel collettivo. Sì, seguo il collettivo dall'anno scorso. Che cos'è il collettivo? Ce lo racconti? Che cosa fate? Ok, siamo un gruppo di studenti della scuola, piuttosto esiguo purtroppo, e ci ritroviamo una volta a settimana. Cosa facciamo? Parliamo inizialmente di materie interne alla scuola, per poi spostarci a problemi, diciamo, sociali, politici. Quali sono le tematiche più aderenti alla tua scuola? Cioè, che cosa vorreste cambiare nella vostra scuola? Cos'è che non vi piace della vostra scuola? No, la nostra scuola in generale ci piace, va bene, è una bellissima scuola. Quello su cui vorremmo puntare è sull'interesse che gli studenti hanno nei confronti appunto di materie più importanti, appunto come la politica, che spesso invece vengono tralasciate dai ragazzi giovani della nostra età. Se tu fossi il ministro della pubblica istruzione, cosa vorresti, come la vorresti la scuola? All'interno della nostra scuola, essendo un classico, spesso si ha l'idea che appunto sia una scuola rigida, irregimentata tra virgolette, no? E molti di noi ragazzi sono anche favorevoli a una scuola di questo tipo, più rigida. Io personalmente preferirei invece qualcosa di più interattivo, più laboratoriale appunto. Credo sia più semplice imparare in questo modo, più produttivo. Sono nato perché qualche dun scagliò sul terriccio bagnato del orto e subisso flussi per l'intera vita. Prestante e resistente della mia condizione, no, non mi lamentai. In primavera donavo le mie mele alla gente senza chiedere un compenso, giammai. Ancorato al terreno, sono qui soltanto per dare beni primari e di necessità. Intanto mangiano i miei figli e rinnaffiano le mie catene, ma io conoscerò mai la felicità. L'unica compagnia sono i cani che pisciano sopra il mio tronco. per l'uscita dal giardino dell'Eden. Non incolpate il melo, no, incolpate il creatore. E spesso pensai di fronte al torto di lasciarmi marcire, di farla finita. Ma sapete, un giorno si erse dall'altro lato dell'orto la mia unica ragione di vita. Lei era una pianticella, bella e suadente, così dolce e scostumata, proprio come una bugia che stava lì immobile, ferma, senza fare niente. Io l'amavo, di lei oramai ero in balia. Ancorato al terreno, sono qui soltanto per dare beni primari e di necessità. Intanto mangiano i miei figli, innaffiano le mie catene, ma io conoscerò mai la felicità. Se l'ho conosciuta, sai, forse l'ho intravista, forse mi è passata vicino. Sarà la fortuna che mi ha baciato, o sarà una svista. Immaginazione, forse sono solo un cretino. Profumava di vino. Una canzone questa che non conoscevo. Chi sono questi cantanti? È un gruppo musicale nato principalmente su YouTube, diciamo di nicchia. Non ascolto tendenzialmente canzoni molto famose. Non guardi Sanremo, insomma. No, diciamo, ho ascoltato le canzoni, diciamo, più che hanno vinto, così, ma... E come si chiamano? Raccontaci un po' di questo gruppo e soprattutto che ruolo ha la musica nella tua vita? Ha un ruolo importante? Io ho iniziato a suonare qualche strumento, ma non ho mai avuto la costanza per continuare, ma mi è sempre piaciuto molto cantare, fin da quando ero piccolo. Ho sempre ascoltato molta musica e cantato tantissimo. Conosco a memoria la maggior parte delle canzoni che ascolto. I Pinguini Tattici Nucleari, che ho conosciuto l'anno scorso, sono effettivamente uno dei miei gruppi preferiti. Se la trama finisce, la storia rimane. E se la storia scompare, resta la melodia. E se anche la melodia termina, rimane, rimane solo una dolce, scostumata bugia. Parliamo invece un po' della tua famiglia. Ok. Che famiglia è la tua? Una famiglia chioccia, una famiglia che ti sta molto addosso, ti lascia fare le tue scelte? Mi lascia fare le mie scelte, mi lascia prendere i miei rischi. Recentemente ho fatto un piccolo viaggio, insomma 8 giorni da solo a camminare, e anche se appunto avevano suppongo anche loro un po' di paura a lasciarmi andare così da solo, nel senso senza adulti, o da solo nel senso che eri proprio solo? Ero proprio da solo, ho incontrato altra gente sul percorso, ma ero da solo. Posso chiederti che viaggio è stato? È stato un pezzo della Via Francigena, insomma ho fatto 220 km in 8 giorni, ho incontrato camminatori, altri pellegrini, ma principalmente la maggior parte del tempo ero da solo, molte notti le ho passate da solo. E com'è andata? È stata dura? Dal punto di vista fisico sì, nel senso che era molto faticosa. Dal punto di vista della solitudine no, anzi io sono partito perché dovevo, insomma, mettere un po' a posto qualche tassello di me. Sono stato tanto da solo, ho scritto tanto. L'hai messo a posto? Li ho messo a posto, tasselli. Sono tornato meglio. Quindi in questa solitudine, in questo tuo camminare, hai trovato dei punti fermi che stavi cercando? Sì, diciamo che quando sei da solo e fai fatica da solo, il tempo si dilata molto, magari i problemi che qua a Milano nella vita di tutti i giorni sembrano difficili, quando sei invece sulle montagne da solo sono facilmente risolti. Ti si libera la testa e quindi si pensa con maggiore lucidità. Assolutamente. In solitudine. Torniamo però alla tua famiglia, che quindi ti lascia, non ti sta addosso, come dite voi, insomma, no? Giusto. E che cosa fate insieme? C'è qualcosa che fate insieme in famiglia? In questi ultimi anni ho passato un po' meno di tempo con la mia famiglia, perché noi abbiamo una casa in montagna. Prima, insomma, quando io andavo alle medie, andavamo un weekend ogni due in montagna, stavamo insieme, lontani appunto da internet, per esempio, dagli amici. O meglio, abbiamo anche degli amici lì, ma è un'altra cosa, chiaramente. In quest'ultimo periodo di liceo, avendo il sabato scuola, per me è stato più difficile salire, ho passato meno tempo con loro. C'è qualcosa su cui la tua famiglia, i tuoi genitori ti criticano, che vorrebbero magari che tu migliorassi? Insomma, c'è una cosa che non piace tanto loro di te? Ma suppongo anzi, senza supporre troppo, loro mi criticano un po' il non aiutare eccessivamente in casa, nei bisogni della casa. Questa casa non è un albergo, ti rispondo, esatto, dicono. A grandi linee quello è il messaggio. Ma c'è un valore, secondo te, che la tua famiglia comunque ti sta comunicando, che ti resterà dentro forse per tutta la vita, anche quando poi un giorno avrai una tua di famiglia, se deciderai di averla? Sicuramente la mia famiglia è una bella famiglia, sono delle belle persone che insomma hanno nella loro vita attraversato difficoltà come tutti, ma mi hanno insegnato appunto ad andare avanti, tutto si risolve, basta appunto vivere insieme, vivere parlando, vivere condividendo. Vivere, non riesco a vivere, ma la mente mi autorizza a credere che una storia mia, positiva o no, è qualcosa che sta dentro la realtà. Nel dubbio mi compro una moto, telaio e manubrio cromato, con tanti pistoni, bottoni, accessori più strani, far finta di essere sani, far finta di essere insieme a una donna normale, che riesce anche ad essere fedele, comprando sottane, collane, creme per mani, far finta di essere sani, far finta di essere liberi, sentirsi liberi. Forse per un attimo è possibile, ma che senso ha se cosciente in me la misura della mia inutilità? Questa canzone di Gabber tu l'hai sentita dai tuoi genitori? Sì, o sì. Te la sei cercata da sola, no? No, nel senso che in macchina, quando si andava in montagna, si ascoltavano le cassette che si avevano. Gabber era una di queste. Fin dalle elementari l'ho ascoltato e mi è piaciuto sempre tantissimo. Recentemente ho riniziato un po' ad ascoltarlo. Far finta di essere sani. L'hai ascoltato con una testa diversa adesso che sei grande? Sì, chiaramente lo capisco in modo differente. Ci fermiamo per qualche istante. Dai Deborah, racconti la borsa tutto il giorno, dammi un titolo. È meglio il petrolio che sale o il dollaro che scende? È arrivato, se lo sapessi avrei gran soldi in Svizzera, per cui mi servirebbero i tuoi consigli per fare la voluntary disclosure. La voluntary disclosure è meravigliosa, ma ne abbiamo tante di questioni da chiarire agli ascoltatori. Sì, perché non sono temi difficili, noi dobbiamo essere autorevoli. E leggeri, sai, dobbiamo parlare con quella certa autorevole leggerezza. Bravo! Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Da lunedì 4 settembre, tutti i giorni alle 11, su Radio 24. I ragazzi del 99. Se mi guardi con quel sguardo dentro agli occhi, io ti sfido a innamorare. A Napoli, femminiello di una metropoli sul mare, chiaro, femminiello, ma quanti ostacoli nel tuo cuore disperso a Napoli, per fortuna che poi c'è il Napoli al San Paolo di Napoli. San Paolo, San Paolo, convertito di nei pressi di Damasco, San Paolo, San Paolo, quante lettere scrivevi? musica demenziale di Elio e le storie tese, scelta per noi da Rodolfo, il nostro ragazzo del 99 di oggi. Allora Rodolfo, abbiamo parlato della scuola, però non abbiamo parlato di un'altra attività molto importante nella tua vita. Tu sei uno scout. Sì, sono uno scout da 5 anni. Quindi sei arrivato ad essere uno scout già abbastanza grande, insomma, sì, perché sì, si comincia anche da piccolino. Invece tu l'hai scelto più tardi. Sì, diciamo che non conoscevo l'organizzazione, non conoscevo l'associazione. Tramite un'amica di mia sorella mi è stato proposto, sono entrato, mi è piaciuto e ho continuato. Cosa ti piace della vita dello scout, dei valori poi dello scoutismo? Di nuovo direi il valore della fatica, il clan, che è il periodo in cui che sto attraversando io con lo scout, nello scoutismo, si fonda su una serie di pilastri. Una di queste è la strada, il camminare, e da qui il tuo viaggio che hai voluto fare. Da qui il mio viaggio, diciamo. Il prossimo è Santiago. Il prossimo è Santiago, sì. Il clan, il valore del camminare, il valore dello stare solo, ma anche il valore della condivisione. Perché assolutamente sì, la condivisione è estremamente importante. Quando ci vediamo fare le nostre riunioni c'è sempre una prima parte in cui ciascuno, ovviamente a piacere, racconta le esperienze che ha avuto durante la settimana, condivide quello che vuole condividere con quelli che sono la sua famiglia, infine. Allora, mi hai parlato di viaggi, mi hai parlato di un viaggio, in realtà, questo, l'ultimo che hai fatto. Ti piace viaggiare? Assolutamente sì. Lo fai spesso, tutte le volte che puoi, oppure insomma gli impegni ti impediscono di farlo così spesso come vorresti? Spesso mi piacerebbe prendere e partire, diciamo, ma non è possibile, nel senso a Milano ho molti impegni, ho molte cose che devo fare, quindi è sempre difficile. Quest'anno per esempio volevo fare un viaggio per tutto giugno da solo con qualche amico, non è stato possibile per impegni d'alternanza scuola-lavoro. L'alternanza scuola-lavoro ti ha bloccato, esatto. Ti ha bloccato a Milano. Ma quando viaggi, ci hai raccontato del tuo cammino, quando viaggi come viaggi? Viaggi low cost, viaggi zaino e sacco a pelo, oppure te la prendi comoda? Zaino e sacco a pelo, appunto il minor costo possibile, chiaramente. Non sono troppo, diciamo, tirchio. Quando c'è necessità di spendere qualcosa per qualche vedere un museo, te lo togli, per certo, vedere qualcosa di interessante, insomma. E senti, il posto più bello che hai visitato? Non è una città, ma appunto durante l'Interrail c'è stato un momento in cui a Bergen, in Norvegia, io e il mio amico con cui viaggiavo siamo saliti sulle montagne e ho visto proprio il paesaggio, credo il più bello che io abbia mai visto. Bellissimi prati, laghi quasi paradisiaci. Mi mancherai quando te ne andrai. Mi mancherai anche tu, Ron. Ma ti sbagli se pensi che le gioie della vita vengano soprattutto dai rapporti tra le persone. Dio ha messo la felicità dappertutto e ovunque, in tutto ciò di cui possiamo fare esperienza. Abbiamo solo bisogno di cambiare il modo di guardare le cose. Sì, farò tesoro di questo. Un film molto forte, a tratti crudo, Into the Wild di Sean Penn, quello scelto oggi da Rodolfo, il nostro ragazzo del 99. È la storia di questo ragazzo americano che mal sopporta la società, no? In cui vive, e soprattutto le regole imposte dalla società, fino a decidere di porsi fuori da questa società e fino alle estreme conseguenze. Cos'è che ti piace di questo film? Ma il personaggio di Christopher McCandless, che è il protagonista, questo ragazzo che scappa, lo sento anche estremamente vicino. Mentirei dicendo di non aver mai pensato di farlo. Chiaramente sono qui, non l'ho fatto. La società credo che anche con tutti i suoi problemi debba essere in qualche modo acquisita, accettata. Non mi servono i soldi, rendono le persone prudenti. Non è che puoi vivere solo di foglie e bacche. Non so se ho voglia di vivere con molto più di questo. Parafrasando quello che dice Thoreau, non l'amore, non i soldi, non la fede, non la fama, non la giustizia. Datemi la verità. Cos'è che non ti piace di questa società? Se proprio, chiaramente è un discorso molto ampio che non possiamo ridurre a poche parole, però insomma, se c'è qualcosa che proprio vorresti cambiare, che mal sopporti e pensi magari quando sono un po' più grande provo anche a cambiarla questa cosa. potrei dire, ma essendo appunto, come hai detto tu, un discorso molto ampio e molto difficile per me rispondere. Un aspetto che però credo importante sia nelle grandi politiche che poi nelle piccole politiche, diciamo quasi anche familiari, l'egoismo con cui spesso le persone affrontano le cose, pensando a se stessi, alla propria persona, alle proprie famiglie, alle proprie genti, e non pensando invece agli altri. Ma come ti informi tu? Leggi giornali, ascolti la radio oppure la rete? Un po' tutti, nel senso che non sempre in famiglia c'è qualcuno che va a prendere il giornale, quindi... Quindi se ti capita lo sfogli... Se mi capita lo leggo. La mattina tendenzialmente ascolto la rassegna stampa mentre faccio colazione e poi nel pomeriggio, quando torno a casa dopo la scuola, leggo le prime pagine, insomma le notizie principali su internet, seguo qualche opinionista su YouTube che insomma racconta dal suo punto di vista le cose. Come ti sembra la nostra classe politica, visto che a questo punto adesso hai 18 anni, ti toccherà anche votare, quindi ti toccherà informarti un po' di più, ma mi sembra insomma che già fra la rete e i giornali mi sembra che tu sia abbastanza vicino a questi temi. Come ti sembra la nostra classe politica? Credo che insomma la politica italiana attualmente sia in difficoltà, nel senso che nei principali partiti mi sembra stia sfumando il concetto di ideologia che prima era importante, e questo abbandono dell'ideologia in favore di movimenti, di scelte politiche atte, secondo il mio parere, che vabbè, quello di un ragazzo. È importante il tuo parere. Alla ricerca di elettorato, alla ricerca di risposta, secondo me insomma è un grande problema. Grillo, Salvini, Renzi o Berlusconi, con chi ti andresti a bere un caffè per fare due chiacchiere e approfondire? Non deve essere necessariamente la persona in cui ti riconosci di più. Ma mi piacerebbe prendere un caffè con Grillo, almeno per capire le sue idee, se appunto dietro a quelle scelte politiche c'è anche un'idea di fondo o meno. C'è bisogno però di un rinnovamento nella nostra classe politica o no, secondo te? Secondo me sì, nella nostra classe politica italiana, ma in generale in quella europea, in quella mondiale. Credo che però le nostre generazioni possano essere in grado appunto di portare un vento di cambiamento. Improvvisamente qualcuno spinse alla porta della strada alle 2 del pomeriggio, nel silenzio mortale della calura. E i pilastri tremarono così violentemente nelle fondamenta che Amaranta e le sue amiche che ricamavano sotto il portico ebbero l'impressione che un terremoto stava squassando la casa. Arrivava un uomo enorme. Rodolfo ha scelto per noi come libro preferito 100 anni di solitudine di Marquez, un libro del genere, diciamo che non si presta a commenti, perché che commenti vuoi fare su un libro che è uno dei capisaldi della letteratura contemporanea? Ti piace leggere? Mi piace moltissimo leggere, sì, scrivo, leggo, anche se durante il periodo scolastico faccio molta fatica, anzi le pagine che leggo sono veramente poche, per tempo, per stanchezza. E perché devi leggere probabilmente le cose che poi ti danno da fare a scuola, no? Sì, sì, anche quello. Rodolfo, fra 10 anni, come ti vedi? In che paese intanto? In Italia o all'estero? Ma rispetto a molti miei amici che preferirebbero lasciare l'Italia, a me piacerebbe rimanere, vorrei avere questa possibilità. So che è difficile, a me piacerebbe lavorare nel campo della ricerca scientifica, che è appunto il campo in cui c'è la più grande fuga di cervelli in Italia. È difficile, ci proverò, spero ci proverai di riuscirci, insomma. Ecco, il tuo futuro lavorativo come lo vedi? Sei preoccupato? Tu sei nato nel 1999, nel 2008 avevi 9 anni quando è iniziata la crisi, quindi sei cresciuto, sei un figlio della crisi, ne avrai sentito parlare 1000 volte a casa, qualcuno intorno a te avrà perso il lavoro, te la senti sulle spalle questo peso? Assolutamente sì, almeno personalmente ho molta paura, anche semplicemente fra i pensieri è molto difficile affrontare la questione. Adesso siamo in ripresa, speriamo che quando sia arriverai facile, tu insomma, sul mercato, esatto, del lavoro. Questa trasmissione si chiama I ragazzi del 99. Ah, sono sai chi sono? Sono i ragazzi dell'899, che sono l'ultima generazione che andò a finire insomma nei campi di battaglia durante la Prima Guerra Mondiale. Lo sapevi o ti sei preparato prima di venire qua? Mi è stato detto più o meno il titolo, sapevo... Te la sei andata a cercare? No, sapevo che all'incirca il periodo è quello, quindi si poteva immaginare un po'. Grazie a Rodolfo per averci raccontato di sé, della sua vita. Grazie per essere stato negli studi di Radio 24. Grazie mille a voi per la cordialità. Ringraziamo anche Paolo Corleoni in regia. Un saluto da Maria Piera Ceci. Voglio che l'esercito sappia che i nostri giovani fratelli della classe 1899 hanno dimostrato d'essere degni del retaggio di gloria che su essi discese.